GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Protezione civile, responsabilità dei sindaci, le reazioni dopo il via libera del disegno di legge in Consiglio dei Ministri, i primi cittadini confermano il blocco delle attività fino all'approvazione definitiva. Prima udienza a Trieste nel processo al turco che aveva lasciato un trolley con pistole e munizioni al bar della stazione poco prima dell'arrivo del Papa. Udine, cane antidroga della polizia locale trova un chilo di hashish in un pozzetto delle acque meteoriche. Porcia, referendum alla Electrolux sui 5 sabati lavorativi, la consultazione coinvolge 750 dipendenti. Interruzione di gravidanza, un convegno a Pordenone fa il punto su numeri e problematiche nella nostra regione. Sport e calcio stasera, Juventus Udinese sci alpino, presentata la tappa di Coppa del Mondo femminile di Tarvisio. 12:31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Dario Ronzoni. Prime reazioni dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri ieri sera del disegno di legge sulla protezione civile che interviene anche in merito alle responsabilità dei sindaci e dei dirigenti, escludendo la punibilità se non in caso di colpa grave. All'origine della nuova norma c'è tra l'altro il cosiddetto caso Preone, dove nel luglio 2023 un volontario aveva perso la vita durante un intervento per il taglio di alberi pericolanti. Nello scorso aprile il sindaco della località era stato rinviato a giudizio per omicidio colposo, un caso che aveva determinato il blocco delle attività di protezione civile decisa dall'Associazione dei Sindaci. Il disegno di legge per il quale è stata deliberata la procedura d'urgenza dovrà essere definito nei dettagli anche attraverso un incontro con il ministro della Giustizia Nordio. Intanto siamo andati a sentire alcuni primi cittadini in carnia. A Ovaro il sindaco Lino Notte ci ha confermato che finché la norma non sarà approvata dal Parlamento, nel suo comune proseguirà il blocco degli interventi di protezione civile. E ora ascoltiamo la posizione del sindaco di Villa Santina, Domenico Giatti. Una norma che esclude la responsabilità dei sindaci se non per colpa grave. Siete soddisfatti? Intanto è stato un primo passo, è importante che ci sia mossi, è importante che la politica sia mossa, il ministro Siriani è molto vicino comunque ai sindaci, si è mosso a Roma e assieme agli altri parlamentari della regione, è già un primo passo. Questo non vi esenta però del tutto, se non per colpa grave, cosa significa? Significa la solita storia, che i sindaci sono sempre a rischio, hanno sempre dietro l'angolo la condanna o l'ipotesi di una condanna o una cartolina verde, e quindi dobbiamo cercare di difenderci e di sperare nel buon senso di tutti quanti, anche di chi giudica. Villa Santina, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si chiamava Italo Pagotto, la vittima dell'incidente stradale di ieri sera a Pasiano di Pordenone. L'uomo, 81 anni, era alla guida della sua utilitaria, stava svoltando nel vialetto di casa quando è stato centrato da un veicolo proveniente dalla direzione opposta, condotto da un cinquantenne. L'impatto è stato violentissimo, l'auto investitrice si è ribaltata su un fianco, mentre quella della vittima è finita contro il muro di cinta della villetta. L'anziano è morto sul colpo, il conducente dell'altra vettura è stato trasportato all'ospedale di Pordenone per accertamenti. Un incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 7:30 sul raccordo autostradale tra Sistiana e Sgonico a Trieste. Sarebbero almeno 3 le vetture coinvolte, ci sarebbero anche alcuni feriti, sembra non grave. In seguito alla collisione si era formata una coda di circa 2 chilometri e code a causa del traffico intenso si registrano in questo momento sulla A4 per circa 20 chilometri tra Palmanova e Casello dell'Isert in direzione Trieste. Essere incolonnati sono soprattutto mezzi pesanti. Cronaca giudiziaria, prima udienza questa mattina in tribunale a Trieste per il 46enne turco Hasan Uzun, che il 6 luglio 2024, alla vigilia della visita in città di Papa Francesco, aveva portato alla stazione ferroviaria un trolley con una pistola calibro 9 e munizioni. Una spy story che le indagini hanno ridimensionato dopo che inizialmente si era pensato a un piano per colpire il pontefice. Il PM Cristina Bacer ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per Hasan Uzun, 46 anni, cittadino turco, accusato di detenzione e porto abusivo di armi in concorso. La prima udienza in tribunale a Trieste è durata solo alcuni minuti. L'imputato ha dichiarato di non intendersi bene con l'interprete messo a disposizione dal tribunale. Il giudice Alessio Tassana ha dunque disposto il rinvio del processo al 3 dicembre. L'imputato è difeso dagli avvocati Antonio Cattarini e Maria Pia Maier. effettivamente ci sono state delle difficoltà oggettive di traduzione e di comunicazione tra gli stessi. Ricordiamo che è un diritto costituzionale e fondamentale avere per gli stranieri la traduzione e l'interprete in simultanea durante i procedimenti penali. La persona si proclama, l'ha detto anche, sì, anche oggi. Già oggi, estraneo completamente al fatto che ormai gli viene soltanto contestato rispetto a quello che era stato il primo modo di proporre questa notizia, e quindi è stata molto ridimensionata questa questione, però anche di questo fatto di cui oggi si trova a rispondere lui dice di essere completamente strano. Il trolley con la pistola è stato ritrovato all'interno della stazione di Trieste il giorno prima della visita di Papa Francesco, in conclusione della settimana sociale dei cattolici nel luglio del 2024. Una delle prove schiaccianti, le immagini delle telecamere che riprendono Uzun mentre abbandona la valigia scura nel bar, all'interno una calibro 9 con 14 proiettili. La coincidenza temporale lo ha posto al centro di un ipotetico progetto di attentato al pontefice. Arrestato in Olanda dall'Interpol, è stato trasferito in carcere a Trieste. L'inchiesta non ha confermato la pista investigativa dell'attentato. Secondo gli inquirenti, l'uomo sarebbe inserito in circuiti criminali estranei alle reti terroristiche. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Operazione antidroga della polizia locale di Udine che, grazie al fiuto del cane Galant, ha scoperto oltre un chilo di hashish in un pozzetto dismesso per la raccolta delle acque meteoriche. Il rinvenimento è avvenuto in una zona isolata di Udine Sud, nei pressi della linea ferroviaria. La droga era suddivisa in diversi panetti confezionati singolarmente, il valore è di diverse migliaia di euro. Nel mese di ottobre il nucleo cinofilo della polizia locale aveva già portato a termine due interventi di rilievo nei pressi di aree scolastiche dove erano stati rinvenuti materiali e sostanze riconducibili ad attività di spaccio. È stato condannato dal tribunale di Pordenone un cittadino egiziano titolare di una ditta edile responsabile dell'impiego per oltre un anno di un lavoratore marocchino posto in condizioni di sfruttamento. Le indagini avviate nel maggio 2021 erano scaturite a seguito di un malore accusato dal lavoratore in un cantiere edile a Caorle. All'inizio il fatto non aveva destato sospetti poiché il datore di lavoro aveva esibito i documenti che attestavano la regolare assunzione del lavoratore proprio a partire da quella giornata. Poi si è scoperto che la formalizzazione era avvenuta online mezz'ora dopo l'intervento dei sanitari. Il lavoratore inoltre non era in regola con il permesso di soggiorno e veniva pagato appena 150 euro al mese. Il titolare dell'impresa ha patteggiato una pena di un anno e due mesi di reclusione, aveva già ricevuto sanzioni per oltre 50.000 euro in relazione agli illeciti di natura amministrativa. I lavori del Consiglio regionale riprenderà nel pomeriggio l'esame del disegno di legge su welfare e lavoro che va verso l'approvazione. Questa mattina la prima parte della seduta è stata dedicata alle interrogazioni a risposta immediata. 10 interrogazioni a risposta immediata sono rivolte all'assessore alla sanità Riccardi. Il consigliere del PD Cosolini chiede quali azioni stia portando avanti la regione contro il problema della rinuncia alle cure, a cui sono costretti molti cittadini di fronte alle lunghe liste di attesa e ai costi delle visite in privato. Riccardi riconosce che è un tema importante, anche se in regione la percentuale di chi rinuncia è più bassa che nel resto d'Italia, e afferma che più prevenzione, più efficienza e attrattività dei professionisti porteranno a una riduzione dei tempi di attesa. Sempre dal PD, Laura Fasiolo sollecita la necessità di educazione sessuale nelle scuole contro le malattie sessualmente trasmissibili, la cui diffusione è in aumento tra gli adolescenti. 4 interrogazioni sono per l'assessore all'ambiente Scoccimarro. Honsel di Open Sinistra FVG gli domanda cosa voglia fare sulla disparità riscontrata nella qualità dell'acqua erogata tra le diverse zone di Pordenone. Un problema riconosciuto dall'assessore che garantisce che sarà avviato un sistema di filtraggio ai carboni attivi per tutta la rete. Martinez del PD chiede un punto sulla situazione dei parchi fotovoltaici in regione che Scoccimarro fornisce. Restano ora da 3 interrogazioni all'assessore alle infrastrutture Amirante, una all'assessore alle autonomie locali e sicurezza Roberti e una al vicepresidente e assessore a cultura e sport Ansil. Poi si passerà a discutere il disegno di legge soprannominato DDL Rosolen, che contiene misure per rendere il territorio regionale più attrattivo anche per un'immigrazione qualificata. La discussione è iniziata ieri quando sono stati votati 6 dei 41 articoli totali del testo, dunque si prevede un lungo pomeriggio pomeriggio per cercare di arrivare all'approvazione entro oggi. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è in corso dalle 11 di questa mattina nello stabilimento di Porcia il referendum tra i lavoratori Electrolux per rispondere alla proposta dell'azienda che riguarda 5 sabati lavorativi in modalità di straordinario. La consultazione si concluderà alle 14.30 e lo spoglio comincerà alle 16. Saranno coinvolti tutti i lavoratori della produzione, circa 750 dipendenti. Secondo i sindacati l'affluenza sarà altissima, quasi al 100%. Parliamo di salute. A Pordenone un convegno sull'interruzione di gravidanza tra problematiche e numeri in Friuli Venezia Giulia. L'interruzione volontaria di gravidanza, tabù dei tempi moderni, è il titolo del convegno concluso poco fa all'auditorium della regione a Pordenone. Al centro della discussione la legge 194 che disciplina l'aborto volontario e che continua ancora oggi ad essere dibattuta, registrando, anche secondo i più recenti dati nazionali, ampie disparità di accesso ai servizi e di appropriatezza delle procedure. Se da un lato il Friuli Venezia Giulia presenta una situazione migliore rispetto ad altre regioni italiane, dall'altro emergono aspetti da migliorare come prevenzione e attenzione alle fasce più fragili. Roberta Pinzano è direttrice della struttura di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di San Vito al Tagliamento. L'accesso alla IVG farmacologica, che è la metodica che si sta allargando, che sta aumentando in tutta Italia, vede la regione al 70% circa rispetto al 30% del resto d'Italia. C'è comunque una riduzione del ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza da parte delle donne. Tuttavia vediamo ancora che circa il 30% delle pazienti straniere ricorrono a questa metodica. E questo è un dato invece in controtendenza, nel senso che a livello nazionale abbiamo un dato leggermente più basso. Emerge poi l'esigenza di uscire dalla logica della prestazione a favore della presa in carico complessiva della donna, ancora Pinzano. Il prendersi cura è quello che cerchiamo di attuare attraverso il prima, aumento della procedura e il dopo, i bisogni di salute che vengono espressi successivamente, che vanno dalla contraccezione ad altri tipi di attenzioni anche dal punto di vista psicologico. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il Comune di Trieste e l'Università hanno appena firmato un accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria e Architettura e il Servizio Comunale di Pianificazione del Territorio. L'obiettivo è far conoscere ai futuri studenti e architetti le testimonianze storiche di cui la città è ricca. In particolare si occuperanno di digitalizzare una parte dell'archivio tecnico situato dietro Piazza Unità e che conserva 300.000 elaborati grafici dagli edifici dal 1790 a oggi. In particolare gli studenti si concentreranno su quello che ci ha lasciato l'architetto triestino Carlo Celli, scomparso nel 22, e sull'importanza di questo accordo sentiamo l'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder. Trieste è interessata da grandi interventi di rigenerazione e di riqualificazione urbanistiche. A noi preme anche tutelare il bello che abbiamo nella nostra città, quel patrimonio del centro storico anzitutto, ma anche quelli che sono elementi distintivi di un'architettura più recente che si è sviluppata sia in centro sia anche nei primi rioni periferici, come ad esempio Valmaura e Giarizzole, che riportano di rilevanti interventi più contemporanei. Con l'università stiamo lavorando su questi aspetti, sia in termini di tutela sia in termini di valorizzazione attraverso mostre e convegni ad hoc. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. 12.44, uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo cielo da poco nuvoloso a coperto sulla regione, ci sono piogge sparse. Le temperature registrate alle 11, a Trieste 17 gradi, a Udine 13 gradi e 5 decimi, a Gorizia 13, a Pordenone 12, nell'area montana Tolmezzo 10, a Treviso 12, a Sappada e sul Piancavallo 7 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 9, in quota sull'Ussari 4 gradi e 5 decimi, sullo Zoncolan 2 e 5, a Grado 14 gradi e 5 decimi, a Lignano 13 e 5. E le previsioni per oggi pomeriggio vedono un cielo in prevalenza nuvoloso, forse anche coperto su bassa pianura, costa e zone orientali, dove saranno possibili delle piogge sparse, in genere deboli o moderate. In serata possibili foschie sulla bassa pianura e sul Carso. Per domani il cielo in prevalenza coperto con piogge sparse, in genere moderate, più probabili nella prima parte della giornata. Sulle zone orientali, specie sulle valli del Natisone, Isontino e sul Carso, le piogge potranno essere abbondanti o localmente intense, forse anche temporalesche. Sulla costa, vento da sud-ovest moderato, specie sulla fascia orientale, probabile formazione di foschie in pianura e sul Carso. Parliamo ora delle fragilità crescenti degli adolescenti per capire anche cosa stia facendo la scuola per affrontare il problema. Cominciamo da un quadro della situazione in Friuli Venezia Giulia. Ne abbiamo parlato con Cristina Meneguzzi, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale e referente regionale per le dipendenze. Circa un adolescente su quattro mostra sintomi di depressione, uno su cinque mostra anche dei sintomi di ansia e il 10% degli adolescenti è già attenzionato per situazioni di fragilità sul piano familiare, educativo. Stanno aumentando anche i giovani NEET, stanno aumentando i casi di devianza giovanile con comportamenti come il ritiro sociale, il cutting, il bullismo, il cyberbullismo e anche l'uso di sostanze. Rispetto all'uso di sostanze sappiamo che molti giovani continuano a fumare cannabinoidi, una volta dichiara di avere fumato cannabinoidi il 21% dei ragazzi e il 2% dice di fumarlo con molta frequenza. Il 17% fa un uso problematico di internet, una percentuale simile fa un uso problematico dei videogiochi e c'è anche, come dire, un quadro preoccupante rispetto ai consumi alcolici. Siamo, come dire, su percentuali che sono superiori a quelle della media nazionale in Friuli Venezia Giulia per l'abuso alcolico, il binge drinking e anche per l'uso di farmaci senza prescrizione. Sono farmaci che tendenzialmente vengono usati per la gestione del peso, per l'attenzione, farmaci per dormire, farmaci per diminuire situazioni di ansia e di angoscia che sono evidentemente, come dire, non una risposta a un disagio giovanile che sta aumentando. Approfondiamo la questione con la dirigente di un istituto di Trieste, il Deledda Fabiani. L'intervista. In una fase difficile per i ragazzi nelle scuole, con un aumento notevole dei casi di disagio manifestati con violenza, uso di droghe o alcol, disfunzioni alimentari o gesti di autolesionismo, un aiuto può arrivare dallo psicologo che da qualche anno è presente nelle scuole, pur con un'assurda limitazione per l'intervento dello sportello di ascolto, serve il consenso dei genitori, che spesso sono parte del problema. Quindi, oltre che sulla relazione tra docenti e ragazzi, bisogna lavorare anche sul rapporto tra professori e genitori. Tiziana Napolitano, dirigente delle da Fabiani Trieste. Alcune famiglie sono restie a mettersi in discussione, alcune famiglie sono restie anche a lasciare che la scuola per il benessere del ragazzo o della ragazza intervenga o tocchi certi tasti che sicuramente sono dolenti. C'è una certa resistenza da parte di alcune famiglie e questo si vede anche nel comportamento dei ragazzi. Anche per questo motivo servono progetti mirati per coinvolgerli. La nostra scuola ha fatto un po' da apripista in questo senso, con i finanziamenti del PNRR di M19 abbiamo organizzato un corso che ha avuto il titolo di Genitori in Equilibrio. L'idea era quella di lavorare sulla genitorialità in modo da offrire uno spazio di scambio, di ascolto reciproco e di scambio di esperienze, tutto basato su quella che è la teoria del mindful parenting. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport calcio, turno infrasettimanale in Serie A. Dopo gli anticipi di ieri con il successo di misura del Napoli a Lecce e il pareggio con un gol per parte fra Atalanta e Milan, oggi altre 6 partite, fra le quali Juventus-Udinese. I padroni di casa hanno appena esonerato Tudor e non hanno ancora ufficializzato il nome del nuovo tecnico. In panchina oggi ci sarà l'allenatore dell'Under 23 Brambilla. Friulani allo Stadium senza timori reverenziali. Rugnaic vuole puntare al successo pieno. La partita si gioca alle 18.30, su questa rete l'edizione speciale di Tutto il Calcio minuto per minuto, il GR regionale della sera sarà anticipato alle 18.05. Turno infrasettimanale anche nella A2 di basket, si giocano le partite dell'ottava giornata. La Gesteco è in casa contro Scafati, una tra le più accreditate pretendenti alla promozione. La squadra di Pilastrini vuole proseguire nella striscia positiva dopo il successo Mestre per dare finalmente continuità a un campionato fin qui con molti alti e bassi. L'inizio alle 20.30. È stata presentata poco fa a Trieste la tappa della Coppa del Mondo di sci femminile a metà gennaio, un appuntamento in calendario calendario a poche settimane dalle Olimpiadi invernali è molto atteso non solo a Tarvisio, sia sotto il profilo sportivo sia da quello turistico. Dopo 15 anni ritorna la Coppa del Mondo di sci alpino femminile in Friuli Venezia Giulia. A Tarvisio, il 17 e 18 gennaio del 2026, sono in programma una discesa e un super G sulla pista di Prampero, che ospitò già il Circo Bianco nel 2007, nel 2009 e nel 2011. Per la quarta volta nella storia, nella località della Valcanale, le migliori atlete al mondo si sfideranno su un tracciato che è considerato molto tecnico e selettivo e che sarà la penultima prova nelle discipline veloci prima dell'appuntamento olimpico di Milano Cortina del 2026. In questa edizione è stato rinnovato il comitato organizzatore, che sarà presieduto dal direttore generale di Promoturismo FVG Jacopo Mestroni e che potrà contare sull'apporto di 200 volontari scelti da 7 sci club regionali e sulla collaborazione con la Federazione dello Sci Carinziana e quella degli organizzatori della Coppa del Mondo della vicina Kranjska-Gora, in programma il 3-4 gennaio del 2026 con un gigante ed uno speciale. Un evento molto atteso da tutta la regione, a cui ci teniamo molto grazie ad un lungo lavoro di confronto con la Federazione Internazionale dello Sci, che prima ha portato ad ospitare lo scorso anno i campionati mondiali juniores di sci alpino, sempre a Tarvisio, e che ora vedrà la luce a poche settimane dall'appuntamento olimpico, ha sottolineato il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Sarà una grande vetrina mediatica per la promozione turistica del territorio, ha commentato l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini nel corso della presentazione nella sede della regione di Piazza Unità a Trieste. Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il velista Vasco Vascotto ha ricevuto questa mattina dal sindaco di Muggia, Paolo Polidori, il Leon d'Oro, la massima onorificenza del comune. Alla cerimonia ha partecipato Martina Jelovcic, presidente del Circolo della Vela di Muggia, il club con il quale Vascotto cominciò la propria attività sportiva e che oggi lo vede come socio onorario. Vasco Vascotto, classe 1969, ha conquistato 28 titoli mondiali in varie classi, innumerevoli titoli italiani ed europei e 5 giri d'Italia a vela. Ha partecipato a 2 campagne di Coppa America e in questa stagione, oltre a numerose vittorie, ha tagliato il traguardo di 35 anni di professionismo. Parlare di Vasco Vascotto a Muggia, ha detto il sindaco Polidori, è come parlare di Collovati e Teor, di Zoff e Mariano del Friuli, di Primo Carnere, di Sequals, di Nino Benvenuti e Isola d'Istria. È l'accostamento del campione sportivo che identifica un luogo e del luogo che identifica il campione, due fattori tra loro indissolubili che sono possibili solo se la persona, in tal caso il personaggio, mantiene costante e fedele la sua appartenenza territoriale e la sua forte identità nei confronti della città natale. Da parte sua Vasco Vascotto si è detto felice del riconoscimento anche per l'aspetto umano e non solo sportivo messo in luce dalle motivazioni e dalla cerimonia. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Dario Ronzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Caterina Cabrelli e Tommaso Vinoni, ha collaborato in redazione Zeno Duban. 12:53 minuti, 30 secondi, prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per averci seguito, ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.